effetto. Qua cervo di metafore che esprimono un concetto. Assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di capire in passato è solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare. Non esiste antidoto e la morte mentale. Opponi resistenza, non farti plagiare. Se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare. Preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire! E allora, ben ritrovati e ben ritrovate a tutti i nostri amici, amiche, ascoltatori, ascoltatrici. Questa è Radio Wombat, più precisamente lo spazio della stampa rassegnata. Per chi non ci conoscesse, la stampa rassegnata è una delle trasmissioni informative della nostra radio con la quale cerchiamo di affrontare tutto ciò che ci sembra interessante a partire da spunti di cronaca locale, ma spesso e volentieri, anzi direi sempre più spesso, e chi ci ascolta con continuità se ne sarà accorto, dando anche voce e spazio alle vertenze, alle lotte e ai protagonisti diretti di queste lotte, di queste vertenze. In questa settimana va proprio detto, insomma, tra le tante diciamo novità con le quali questa settimana ci siamo tra virgolette svegliati, c'è stata non solo la rielezione di Nardella a sindaco della città di Firenze, che si è riconfermato consolidandosi con un 57% delle preferenze. Quello che davvero ci ha in qualche modo positivamente stupito e preso forse anche in contropiede, è il caso veramente di dirlo, è la pubblicazione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale che ad aprile, si era precisamente il 3, si era riunito per decidere e discutere del ricorso presentato sia dai comitati, nella fattispecie e per l'esattezza dai comitati dell'area pratese, contro questa valutazione di impatto ambientale che poi ha permesso all'aeroporto, imboccando la via preferenziale tracciata dal decreto legge cosiddetto decreto Galletti del luglio del 2017, di arrivare poi alla conferenza dei servizi che in 3 sedute, rinviata per alcune volte, insomma alla 3ª seduta aveva dato l'ok con l'ago della bilancia rappresentato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti capeggiato da Danilo Toninelli del Movimento 5 Stelle, che contrariamente alle dichiarazioni da sempre sostenute in campagna elettorale aveva dato il suo semaforo verde, autorizzando quindi di fatto il master plan per il nuovo aeroporto. Tutta questa vicenda era arrivata nei primi giorni di maggio, addirittura a vedere le dichiarazioni spot di Toscana Aeroporti, che insieme a Nardella, immancabile decisore pubblico schierato a favore di questa nuova pista e di questo potenziamento dell'aeroporto di Firenze, avevano dato il via a dei lavori all'interno del perimetro dell'attuale aeroporto, lavori che Toscana Aeroporti e Nardella, decisori pubblici quindi, e imprese e gestori, avevano presentato come i primi lavori della nuova pista. Erano invece, e sono invece, perché i lavori sono ancora in corso, lavori di messa a norma e di rispetto di prescrizioni così vecchie che risalgono addirittura al 2003. Hanno a che vedere con la costruzione di una area di laminazione idraulica, quindi si sta parlando dell'impatto idraulico, la cosiddetta vasca di Peretola. Vasca di Peretola che doveva essere costruita e fatta nel 2003, rispettando insieme ad altre prescrizioni in realtà mai ottemperate, e che a Toscana Aeroporti va a realizzare solo oggi. Tutto questo ulteriormente gli faceva e gli permetteva di prendere, diciamo, due piccioni con una fava: dall'altra presentare dei lavori come se fossero l'avvio dei lavori per il nuovo aeroporto, dall'altra parte mettersi a norma e fare la figura dei bravi ragazzi proprio agli occhi dell'opinione pubblica e anche di quelle toghe che si sarebbero di lì a poco trovate a dover decidere su che fare rispetto ai ricorsi. Ebbene, questi lavori non solo non hanno, diciamo, permesso a Toscana Aeroporti di coagulare intorno a sé il consenso per la nuova pista, ma non gli hanno neanche valso la medaglietta dei bravi ragazzi e dei good boys, perché il Tribunale Amministrativo Regionale, ripetiamolo, si è pronunciato assolutamente contro il master plan dell'aeroporto di Firenze. Una sentenza, insomma, che, come ho detto, in qualche modo ci ha sorpreso, anche come forze che in questi anni si sono fortemente opposte e continueranno a farlo, perché non ci aspettavamo che uscisse uno che uscisse il giorno praticamente dello spoglio elettorale. E nello stesso tempo non ci aspettavamo neanche che la sentenza cogliesse in modo così sostanziale i punti di attacco della critica che è stata mossa al master plan aeroportuale sia dai comitati che dal ricorso di alcuni comuni. In effetti, insomma, quello del TAR è stato ad oggi, lo possiamo ritenere un buon lavoro, tant'è che questa settimana, per l'appunto, i padroni del territorio, tutto quel complesso di forze e di interessi che sta dietro al progetto di nuovo aeroporto, ha veramente dato di matto, ha sbavato, ha sbraitato, ha smattato. Siamo arrivati anche, insomma, a delle dichiarazioni, diciamo, offensive, che mettono in discussione l'operato e la capacità di operare della giustizia amministrativa, che addirittura si è sentita in questi giorni così tirata in causa e così messa in discussione da mobilitare il suo ufficio stampa, che scrivesse a Repubblica alcune rettifiche, alcune precisazioni, e gli facesse presente che le dichiarazioni pubblicate, che in realtà Repubblica dava solo spazio alle dichiarazioni fatte da Marco Carrai, uomo di punta di Toscana Aeroporti, insieme a Roberto Naldi, praticamente erano a rischio diffamazione. Quindi addirittura, insomma, siamo arrivati alla diffamazione della giustizia amministrativa. Questa è stata un po' la settimana. I titoli si sono sprecati, titoli, sottotitoli, lettere aperte di abitanti e cittadini, risposte dei giornali che fanno cronaca locale. È superfluo leggerle tutte, ma magari è invece significativo avvalersi una volta tanto, o meglio, qualche volta lo facciamo quando è possibile, avvalersi del lavoro dei giornali e dei giornalisti. E in questo caso direi che vale la pena dare lettura di un articolo della Nazione, che, contrariamente a come spesso fa anche rispetto alla questione aeroportuale, che spesso abbiamo citato articoli concepiti in maniera veramente propagandistica, con un uso molto mellifluo e sfacciato anche delle parole o del presentare i fatti. In questo caso, forse perché si parla di una sentenza e di un tribunale, a dire no, e quindi non sono cittadini, non sono i comitati, ma a dire no, ripeto, è un tribunale e la giustizia amministrativa, un articolo molto sobrio commenta la sentenza. Direi che lo fa abbastanza bene e lo possiamo utilizzare per tutti coloro che fino a qui non avessero capito molto, in sostanza, di quello che è successo, che è possibile, perché magari ho dato molte cose per scontato. Ma adesso vi leggo l'articolo, che fa, diciamo, un po' di più che di chiarezza, di informazione, ma che è utile. L'articolo è di martedì. Aeroporto shock, il TAR boccia la pista. I giudici accolgono i ricorsi sulla via dei comuni contrari all'ampliamento del Vespucci. L'articolo. Tutto da rifare. Per l'aeroporto di Firenze si ritorna a 5 anni fa. Il colpo di scena e di spugna, su un iter lunghissimo, arriva dalla sentenza 793 del 2019, pubblicata proprio ieri, con cui il TAR della Toscana ha accolto i ricorsi presentati da comuni e comitati contro il decreto di VIA, valutazione impatto ambientale, è l'acronimo di VIA. VIA è una parola che ricorre spesso nei nostri ragionamenti e vuol dire valutazione di impatto ambientale. Per il progetto di ampliamento dello scalo di Peretola, annullando il decreto ministeriale del 2017, il decreto Galletti, come dicevo, e gli atti collegati che certificavano la compatibilità ambientale del master plan presentato da ENAC. In generale, pur con alcune sfumature diverse per i documenti presentati dai comuni di Calenzano, Carmignano, Poggio a Caiano, Sesto, Campi, Signa, poi ritirato, e Prato, e dai comitati, i giudici hanno giudicato illegale il decreto di VIA. Perché? Perché non ha compiutamente valutato l'impatto ambientale del progetto, prevedendo un numero troppo elevato di prescrizioni. oltre 140, comprese le subprescrizioni, che per tenore di fatto hanno posticipato la valutazione dell'impatto ambientale all'effettiva realizzazione del progetto. Mi permetto di fare un inciso, quindi praticamente il TAR cosa mette in discussione? Mette in discussione, e ripeto, in modo sostanziale il master plan, e lo fa seguendo la descrizione e l'istruttoria fatta dai ricorsi, soprattutto da quello presentato dai comitati, che giustamente fanno notare come moltissimi progetti moltissimi aspetti del progetto, soprattutto quelli più critici, non sono risolti a monte del progetto, ma la risoluzione di queste difficoltà tecniche viene demandata e posticipata alla fase esecutiva dell'opera, il che chiaramente evidenzia un difetto di istruttoria. Cioè, giustamente il TAR dice, prendendo in considerazione le indicazioni del ricorso e le motivazioni dei comitati e dei comuni, voi non potete presentare un progetto che pretende di risolvere dei problemi in fase esecutiva. Cioè, prima ci presenti la possibilità di risolvere i problemi, ci presenti delle soluzioni accettabili, su queste noi, insomma, gli enti preposti fanno delle valutazioni sull'impatto che queste soluzioni tecniche avrebbero sull'ambiente, e poi eventualmente si decide. Comunque, continuando a leggere l'articolo dice: opere tra l'altro nevralgiche e di grande impatto, tra le quali lo spostamento del fosso reale, il sottoattraversamento dell'autostrada A11 e la riorganizzazione dello svincolo A11 per Sesto Fiorentino e Osmannoro, con la ricollocazione del lago di Peretola e di alcuni bacini del sito La Querciola, oltre alla delocalizzazione dei boschi della Piana. Quindi si sarebbe verificato per i giudici un evidente difetto di istruttoria. Tra gli elementi di criticità rilevati, anche la costituzione dell'osservatorio ambientale per il nuovo aeroporto, con compiti di sorveglianza, vigilanza e controllo, senza il coinvolgimento dei comuni interessati dall'opera, vicenda per la quale i sindaci di Sesto e Campi, Lorenzo Falchi e Emiliano Fossi, avevano inviato una dura lettera di protesta all'allora ministro dell'Ambiente Galletti e al sindaco della città metropolitana Dario Nardella, ed era insorto anche il fronte dei sindaci del Pratese. La sentenza arriva a pochi giorni dall'annuncio di Toscana Aeroporti, in concomitanza con l'avvio di una serie di opere idrauliche, di cui vi ho parlato all'inizio, che i lavori del master plan aeroportuale sarebbero iniziati a breve, già in estate, secondo l'indicazione più ottimistica, o a ottobre, previsione ora naufragata. A questo punto la situazione è completamente azzerata e l'iter dovrà ripartire di nuovo, ma la giustizia amministrativa sarà chiamata di nuovo in causa. Toscana Aeroporti annuncia di avere dato mandato ai propri legali in difesa dei propri interessi legittimi, dei suoi azionisti, della città di Firenze, che aspetta quest'opera da 50 anni, e di tutti quelli che vogliono infrastrutture come motore di sviluppo e benessere, di proporre immediatamente appello al Consiglio di Stato con richiesta di sospensiva. Ecco, questo era l'articolo che, ripeto, ha fatto, direi, un buon punto a firma di Sandra Nistri, che insomma segue le cose da molto tempo su questo fronte, e in maniera sobria e abbastanza sintetica ha riassunto la questione della sentenza. Ripeto, la cornice, lo scenario che ha seguito questa sentenza è immaginabile. Insomma, si è sbraitato in lungo e in largo nel dire che il TAR ha cacato fuori dal vaso, usiamo un termine abbastanza, un francesismo, perché si è permesso di mettere la bocca su aspetti tecnici che invece sarebbero già stati risolti in altre sedi, ha visto infinite e ricorrenti dichiarazioni su tutti i media che gli hanno dato spazio, tra questi anche le radio FM della nostra città, Lady Radio, Contro Radio, nessuno si è sottratto a dare voce a Toscana Aeroporti, a dare una Nardella, a Toccafondi, cioè a tutti quelli che in questi anni sono stati protagonisti del sì, che dicono un po' tutti la stessa cosa, cioè non si può fermare lo sviluppo perché questo è un colpo a tutta l'economia. Ovviamente si chiama sempre in causa tutta la Toscana, tutta la nazione, tutto il mondo, casca tutto a terra se non si fa questo aeroporto, perché la retorica e il ricatto che si tenta di esercitare sulla società è sempre di questa portata e di questo stampo. purtroppo non possiamo stare tranquilli. Ora ricorreranno tutti, facendo valere tutto il peso sia politico che imprenditoriale che hanno sulla città, e quindi ci sarà la sentenza del Consiglio di Stato che dovrà o potrà o riconfermare quello che è successo o rimettere di nuovo tutto in discussione. Che anche se questo stop momentaneo possa essere duraturo e mediamente lungo, costringendo i nostri avversari a imboccare di nuovo da capo il percorso autorizzativo e l'iter autorizzativo, rifare un'altra via, certamente il rischio che vogliano e possano andare avanti c'è. C'è anche il rischio che queste prescrizioni, che una maggiore attenzione all'ambiente, alla tutela ambientale, ai vincoli e ad altre cose, si possa trasformare in un ulteriore strumento di finanziamento, perché anziché fare lavori, passato un altro francesismo, a cazzo e chiedere X soldi pubblici, loro diranno: beh, allora noi, siccome ci imponete di farli meglio, noi li facciamo X più 10 e voi con i soldi pubblici ci date X più 10. Quindi insomma, i rischi purtroppo ci sono sempre, certamente rafforza le nostre lotte e le nostre vertenze, resta del tutto ancora aperto e per certi aspetti completamente irrisolto la questione di che fare con l'aeroporto attuale, un aeroporto che sappiamo essere cresciuto in maniera molto, molto forte, esponenziale, come d'altronde è successo a tutto il trasporto aereo sul pianeta, e sembra nelle prospettive che gli sviluppisti capitalistici si danno che sarebbe un settore ancora e ulteriormente in espansione. Dall'altra parte, certo, restano aperte al di là dell'aeroporto di Firenze o meno, ma questo per quanto riguarda tutti gli aeroporti e tutti i trasporti aerei nel mondo, restano aperte tantissime questioni, a partire proprio dall'uso dei combustibili fossili con i quali insomma gli aerei ad oggi sono alimentati per la loro totalità. E quindi insomma le prospettive di crescita per gli anni 2030-2035 sono impressionanti, se si pensa a quelle che loro si danno, cioè che si danno i gestori e le compagnie aeree, ma devono ovviamente fare i conti con quella che è la disponibilità delle risorse sul pianeta, con quelle che sono tutta un'altra serie di fattori in gioco, non ultimi insomma anche i diritti e la voce delle popolazioni, come quelle sorvolate di Pereto, Labrozzi e Quaracchi, che forse si trovano in questo momento di fronte anche a delle opportunità che potrebbero anche stupirci e essere in grado di coglierle, visto che il dibattito sul nuovo aeroporto potrebbe aver avuto quantomeno il merito di aprire la discussione e minimamente uno spiraglio di luce e di riflettori su quella che è la situazione dei sorvolati di oggi, di cui nessuno si è mai interessato, ai quali però è stata fatta una corte sfrenata e sfegatata sia da Toscana Aeroporti che da il Partito Democratico e dalle liste civiche che hanno sostenuto Nardella per queste elezioni, che li hanno coccolati e vezzeggiati nel tentativo di arruolarli nella crociata per il nuovo aeroporto, dicendo: noi non ne possiamo più di essere sorvolati con questa pista perpendicolare al raccordo autostradale e vogliamo la pista parallela al raccordo autostradale per toglierci gli aerei dalla testa. Ora che questa pista è nuovamente messa in discussione, quando sembrava che si costruisse dall'oggi al domani, però insomma queste vicende a cui è stato dato finalmente rilievo e visibilità, ripeto in maniera strumentale, però gli è stata data, e quindi il dibattito su questo aeroporto resta, o forse si può aprire, certamente si aprirà, anche se questi cittadini sapranno diciamo separare le loro istanze da quelle dei padroni, che tutto hanno a cuore tranne che i diritti delle popolazioni. Se diciamo questa separazione tra alluminio e cartone, come nel Tetra Pak, che certamente sappiamo non essere facile, infatti è un materiale devastante, e se questa separazione avverrà, e potrebbe avvenire anche ad opera del lavoro dei comitati e dei movimenti, e magari si apriranno degli scenari interessanti e nuovi anche per il ridimensionamento di questo aeroporto, che noi abbiamo sempre caldeggiato e da questi microfoni ne abbiamo sempre parlato in questi termini, a partire proprio dal numero dei movimenti. Sappiamo che oggi sono circa 30.000 i movimenti all'aeroporto di Peretola, che è un numero comunque ragguardevole, e che Insomma, se i padroni della città non saranno in grado di realizzare l'aeroporto nuovo, potrebbero addirittura aumentare come numero di movimenti su questa stessa pista, perché le potenzialità ce le avrebbero. Avrebbero delle difficoltà nel far arrivare aerei più grandi, ma il modelli aerei che già oggi atterrano potrebbero anche arrivare con una maggiore frequenza. E questo non è un problema da poco, perché certamente, anche se la pista è corta, è piccola e ha tanti problemi, potrebbe comunque essere incrementato il traffico. Noi invece pensiamo che sarebbe opportuno già da oggi stesso cominciare a ridurre, a partire dall'allungamento delle fasce di tutela rispetto alla notte, che è una notte molto corta, quella dei gestori e delle compagnie aeroportuali, perché gli aerei arrivano fino alle 11 la sera e cominciano i decolli o gli atterraggi già dalle 6 della mattina. Quindi se si cominciasse a fermarli la sera per le 21:30 e la mattina si desse alla gente un po' di respiro almeno fino alle 7:30 alle 8, certamente le cose già cambierebbero in maniera radicale. Se poi, insomma, in prospettiva si andasse ulteriormente a ridurre, e noi abbiamo sempre preso in considerazione come scenario possibile anche quello della dismissione con una tutela occupazionale delle centinaia di addetti allo scalo di Peretola, ripeto centinaia, l'ho un po' sottolineato con la voce perché spesso quando si parla di lavoro sembra che a Peretola ci lavorino decine di migliaia di persone, e non è così. Nello scalo di Peretola sono impiegate centinaia di addetti che potrebbero trovare lavoro, essere reimpiegati, avere una tutela occupazionale che certamente a noi sta molto a cuore, ma non può essere il ricatto che qualunque operatore privato esercita su un'intera comunità, perché le persone oggi sorvolate, che hanno visto negli anni le proprie vite seriamente compromesse dall'inquinamento acustico e ambientale del passaggio di questi aerei a poche centinaia o decine di metri dalle loro abitazioni, sono migliaia, e quindi insomma il ricatto dei gestori deve certamente finire, e sarebbe l'ora di aprire una questione anche su questo aeroporto. Insomma, incassiamo per ora questa sentenza che rafforza le vertenze e le ragioni del no che in questi anni abbiamo portato avanti, e proviamo nel futuro ad aprire un nuovo scenario su questo aeroporto. Credo che, insomma, ne abbiamo parlato abbondantemente. Facciamo una prima pausa musicale per non cotonarvi le orecchie, e poi rientriamo in voce con altri argomenti. E, insomma, bene per noi, no aeroporto, sì al parco. Inside. Eccoci, rientriamo in voce. Se vi siete collegati adesso, questa è Radio Wombat, lo spazio della stampa rassegnata, e fino ad ora abbiamo parlato, o meglio commentato e letto nella cronaca locale, quella che è stata l'importante sentenza del TAR contro il master plan presentato da ENAC per conto di Toscana Aeroporti per l'ampliamento, sviluppo e potenziamento del nuovo aeroporto di Firenze. Abbiamo fatto una pausa musicale, chi l'ha sentita erano gli Iron Maiden con The Flight of Icarus, un, in qualche modo un monito a tutti questi arroganti e presuntuosi padroni che vogliono volare alto e poi rischiano di bruciarsi le ali. Ci sembrava proprio il caso di fare questa storica dedica a, insomma, a tutti loro e a tutti i loro interessi messi in discussione dalla sentenza. E parliamo adesso, andiamo a parlare di un altro argomento che in qualche modo non è separato da questa vicenda aeroportuale, proprio perché, come abbiamo visto e sentito e detto tante volte, il ricatto che si esercita sull'intera società è quello dell'economia. Non si può non fare questo aeroporto, non si possono non fare le infrastrutture, perché c'è un sistema economico, il sistema nel nostro caso, nel nostro territorio, soprattutto quello della moda, del made in Florence, del made in Italy, dei luxury goods, cioè dei beni di lusso. E guardiamo cos'è il backstage di tutto questo complesso industriale attraverso la lente di ingrandimento e gli occhiali che ci forniscono le lotte operaie contemporanee. Quindi adesso niente, sentirete ancora la mia voce, che è l'introduzione all'intervento di Sara del Siccovas. E allora, un intervento, un collegamento molto importante, una situazione che vogliamo vedere, seguire e i cui esiti avranno, crediamo, delle conseguenze certamente non scontate per tutto il sistema tessile pratese, la vertenza della tintoria Fada, una tintoria dove, insomma, gli operai, molti stranieri, forse quasi tutti, hanno deciso di mettere in discussione ancora una volta le pratiche di sfruttamento selvaggio, senza orari, senza turni, senza rispetto neanche degli stracci di contratto nazionale del settore. A questa mobilitazione, a questa presa di iniziativa da parte del Siccovas e dei lavoratori e delle lavoratrici dell'azienda hanno risposto, come spesso e troppo spesso succede, gli apparati della repressione. La stessa questura, la stessa prefettura di Prato, quella che abbiamo commentato più volte anche dai nostri microfoni, ha garantito il diritto di manifestazione, la libertà di manifestare alle organizzazioni neofasciste nel periodo del 25 aprile e del 1 di maggio, è la stessa che oggi commina dei fogli di via ai sindacalisti del Siccovas che hanno seguito questa vertenza. A tutto questo la mobilitazione non ha mancato di rispondere in maniera intelligente e incisiva, e quindi ci sembra davvero importante sentire dalla viva voce dei lavoratori, delle lavoratrici, quello che sta succedendo e quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni per una vertenza che, ripeto, avrà e sta già avendo delle ripercussioni sul sistema del tessile pratese e che purtroppo nelle cronache mainstream è andata, diciamo, in onda solo nella versione vittimistica del padrone, del padroncino della fabbrica, che con un cartello in mano e inginocchiato di fronte allo sciopero metteva in evidenza il fatto che lo sciopero sta piegando i suoi interessi e quindi la sua possibilità di sopravvivere. Ciao a tutti, io sono Sara Caudiero, coordinatrice del Siccovas di Prato. Sì, diciamo che la vertenza di Fada viene dopo la vertenza che abbiamo vinto, la tintoria di L. Faccio questa premessa un po' per far capire anche il quadro più generale della situazione a Prato. Noi da un po' di mesi, in realtà dall'estate scorsa, abbiamo iniziato molto piano il lavoro nelle tintorie, nel settore tessile, però diciamo il lavoro certosino di questi mesi sta dando i suoi frutti durante questa primavera. Ad aprile abbiamo iniziato la tintoria di L, dove con 24 lavoratori abbiamo fatto uno sciopero di 16 giorni. Lì c'erano la metà dei lavoratori erano a nero e altri avevano contratti part time o anche 8 ore, però non sostanzialmente seguivano questi turni di lavoro che erano 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, senza poter usufruire di ferie, permessi né malattie. Purtroppo, diciamo, questa situazione è la norma in gran parte del settore tessile pratese, in cui sostanzialmente la normalità lavoro a 12 ore, per cui i lavoratori, se non accettano queste condizioni di lavoro, sostanzialmente non riescono a trovare lavoro da nessun'altra parte. E a FAD abbiamo iniziato lunedì con 35 lavoratori su 50, è una delle tintorie più grandi della città e anche una delle prime che è passata diciamo alle proprietà a proprietari di origine cinese. Prima era portata avanti da un italiano che era proprietario anche della tintoria di L, perché queste tintorie sono a pochi metri l'una dall'altra e diciamo una ventina di anni fa è iniziata la conduzione cinese. Noi con questi, dicevo appunto, sono 50 lavoratori, di cui 35 pakistani e alcuni italiani, diciamo della vecchia conduzione, e alcuni lavoratori cinesi. I nostri iscritti sono tutti lavoratori di origine pakistana. Noi stiamo cercando di fare un lavoro anche per avvicinare lavoratori di origine cinese e fortunatamente dopo la vittoria della tintoria di L stiamo avendo i primi contatti anche con questi lavoratori, ma purtroppo ancora la tintoria FADA si sono iscritti diciamo solo i lavoratori di origine pakistana. Alla tintoria di L che abbiamo iniziato ad aprile abbiamo avuto una grande vittoria, abbiamo ottenuto che tutti avessero contratti a tempo indeterminato con turni di 8 ore e diciamo la regolarizzazione dei contratti. E dopo quella vittoria in tanti sono venuti nel nostro ufficio, sono venuti a chiederci di iniziare una lotta anche nelle loro fabbriche. Noi abbiamo iniziato lunedì con la tintoria FADA, ma già altri lavoratori di tintorie e stamperie si sono rivolti al nostro sindacato e speriamo nel futuro di poter iniziare altre battaglie il prima possibile. Alla tintoria FADA abbiamo iniziato martedì, scusate, non lunedì, con lo sciopero, con picchetto davanti alla fabbrica e abbiamo visto come dopo poco la polizia ha deciso di sgomberare violentemente il picchetto, portando 10 persone in questura e mandando 4 persone in ospedale. Noi purtroppo non ci stupiamo dell'atteggiamento della questura, che in particolare a Prato sta avendo un atteggiamento molto duro nei confronti delle lotte sindacali, e come immagino saprete anche rispetto ai fogli di via che sono stati dati a me e a Luca Toscano, fogli di via da Prato che ci sono stati dati dopo, durante la vertenza di L, è iniziato il procedimento. E il giorno che anche noi siamo stati portati in questura e denunciati, ci hanno dato diciamo la notifica dell'inizio del procedimento per il foglio di via. E questo foglio di via è arrivato a conclusione dopo le nostre memorie, in cui sostenevamo che per noi non è possibile, cioè noi dobbiamo continuare la nostra attività sindacale a Prato, per cui abbiamo necessità di stare sul territorio di Prato, e quindi lunedì ci è stato notificato dicendo che possiamo entrare nel territorio pratese solo per fare attività sindacale. Per noi, per quanto la questura abbia fatto dei passi indietro rispetto a quelli che erano i suoi progetti iniziali di non farci più mettere piede in città, comunque è un grosso è un segnale molto molto pericoloso secondo noi di come la questura stia cercando di avere ingerenza nella nostra attività sindacale. Noi lo vediamo continuamente, appunto anche questo provvedimento è atto a controllare quello che noi facciamo, perché per poter andare in città dobbiamo comunicare che ora andiamo, che ora usciamo. Per noi diciamo nell'oggi pensare che la questura voglia controllare l'attività di un sindacato è diciamo veramente pericoloso, anche rispetto a quello, anche semplicemente quello che c'è scritto, diciamo quello che dice la nostra Costituzione banalmente, in cui anche lì è sancita la libertà sindacale, la libertà di sciopero, che deve essere libero e non deve essere autorizzato da nessuno. Ma purtroppo sembra che questo la questura non lo riesca a capire, la questura di Prato, che continua a sostenere che i nostri picchetti davanti alle fabbriche siano manifestazioni e che noi dovremmo autorizzarli 3 giorni prima. Noi sappiamo benissimo che questo non è possibile, in primis perché quelli non sono manifestazioni ma sono scioperi, e poi sappiamo bene come funziona l'attività sindacale. Noi non possiamo sempre sapere con anticipo quando andremo a fare i picchetti, può succedere sempre un imprevisto, e comunque appunto non sono cose di cui si dovrebbe occupare la questura. E per cui noi appunto stiamo portando avanti un appello per la libertà sindacale nella città, che invitiamo tutti a sottoscrivere. Lo si può trovare sulla nostra pagina Facebook Sicobas Firenze, e si può sottoscrivere inviando una mail alla nostra mail, che è sicobasfirenze@gmail.com. In tanti stanno sottoscrivendo l'appello, stiamo discutendo anche con le categorie di avvocati e giuristi per far analizzare questo foglio di via e capire appunto come è possibile che una questura porti avanti dei provvedimenti del genere. Noi sul foglio di via faremo ricorso al prefetto, perché può il prefetto, la prefetta, scusate, di Prato può decidere di revocare questo foglio di via, per cui noi chiederemo che anche lei si pronunci su questo foglio di via, perché pensiamo che sia una questione politica in primis e non una questione di ordine pubblico, come vuole sostenere la questura di Prato. E poi in ogni caso faremo ricorso al TAR per farlo revocare. Ma in ogni caso la nostra attività sindacale sta andando avanti anche molto bene, anche se la questura appunto pensa di spaventare noi e gli operai in lotta con le sue azioni. Siamo tornati dopo che ci hanno sgomberati, il giorno dopo, immediatamente dopo una conferenza stampa, siamo tornati davanti ai cancelli e continuiamo questa lotta per semplicemente portare avanti delle rivendicazioni molto semplici, che purtroppo hanno un sapore un po' ottocentesco, che sono quella di voler lavorare 8 ore, di poter avere dei giorni di ferie, di non lavorare tutti i giorni della settimana ma avere 1 o 2 giorni liberi, sostanzialmente lavorare 40 ore settimanali, poter andare in malattia, poter chiedere dei permessi. Questo secondo noi è il minimo, ma non secondo noi, come sappiamo, secondo tutti è il minimo che si può avere su un posto di lavoro, ma sembra che questo il padrone della tintoria Fada non voglia capirlo, visto le sue scenate. Non so se avete visto, è girata molto, immagino di sì, è girata molto la foto di Franco, il padrone di Fada, con un cartello in cui si inginocchia addirittura davanti ai giornalisti piangendo miseria, dicendo che noi non lo facciamo lavorare e dicendo che il Sicobas comanda a Prato. Noi sosteniamo che sì, il Sicobas comanda a Prato quando si parla del fatto che bisogna lavorare 8 ore, questo sì, lo comandiamo e pretendiamo che venga rispettato. Questi soggetti, certo non è il primo padrone che va a piangere quando si fanno gli scioperi, si rendono conto solo dal momento in cui i lavoratori si ribellano che quello che stanno facendo non è più sostenibile, perché finché i lavoratori lavoravano 12 ore al giorno andavano benissimo e lui era molto contento. Per cui quello che noi stiamo chiedendo sostanzialmente è un incontro di trattativa con questa, con i datori di lavoro dei nostri lavoratori. La loro risposta è stato un muro fino a oggi rispetto a questa ipotesi, e quindi ci chiediamo anche quali siano, cioè in che modo noi stiamo imponendo, cioè stiamo prevaricando la libertà di questo soggetto, visto che quello che noi sosteniamo è se lui sostiene che noi siamo dei bugiardi e che non diciamo la verità, allora vuol dire che in quella fabbrica si lavora 8 ore e quindi per noi problemi sostanzialmente non ce ne sono. Per cui abbiamo invitato più volte ad un incontro. Ieri siamo stati fuori dalla prefettura per chiedere che la prefettura anche intervenga, dal momento in cui lui non vuole sedersi a un tavolo, per invitarla a un tavolo alla presenza della prefettura. di nuovo siamo ci siamo situati di fronte alla prefettura per fare un presidio e siamo stati sgomberati. Il presidio era stato comunicato verbalmente il giorno prima, visto che non era possibile fare un'autorizzazione perché la decisione è stata presa da un giorno all'altro, e ci avevano detto che era possibile fare il presidio, ma una volta arrivati lì siamo stati sgomberati di nuovo anche davanti alla prefettura. E questa è l'ennesima situazione in cui la questura di Prato continua a provocarci e tentare di metterci i bastoni tra le ruote. Faccio un altro esempio per, diciamo, far comprendere meglio la situazione. Noi insieme a FADA, visto che appunto gli scioperi, per quanto ne voglia la questura, non si fermano mai, insieme a FADA contemporaneamente stiamo portando avanti un'altra vertenza a una ditta che si chiama Grucce Creation, che è fondamentalmente una fabbrica di grucce, e si sono rivolti al Sicobas 8 lavoratori che lavoravano a nero, 7 di questi lavorano a nero, e per diciamo una casualità il datore di lavoro è venuto a saperlo e li ha licenziati tutti in tronco, semplicemente non li ha più fatti venire a lavoro, visto che non avendo un contratto non c'è nemmeno bisogno di un licenziamento. Per cui abbiamo iniziato lo sciopero lunedì insieme a questi lavoratori, abbiamo fatto un picchetto lì fuori. I responsabili ci hanno tirato sassi, spazzatura e secchiate d'acqua dalle finestre, però alla fine siamo riusciti a ottenere un tavolo di discussione su questa situazione, e addirittura durante il tavolo, diciamo nello studio del commercialista di questa ditta, la Digos è entrata dentro e ha interrotto il nostro tavolo per parlare con il consulente di questa ditta durante il nostro tavolo, quindi per appartarsi con il consulente, parlargli. Noi ovviamente non sappiamo cosa si siano detti, e poi solo dopo questo abbiamo potuto ricominciare. Per noi questa, diciamo, è stata una scena molto brutta, ma appunto simbolica di come la polizia continua a voler controllare, a voler mettersi in mezzo a delle questioni che sono questioni sindacali, dei diritti del lavoro, di cui la polizia non si dovrebbe in alcun modo interessare. Noi ovviamente, come dicevo anche prima, non ci facciamo spaventare, i lavoratori sanno benissimo che la lotta va avanti, che sanno benissimo come la polizia non sarà mai dalla nostra parte, e sanno bene che metteranno in campo altri nuovi tentativi per fermarci, ma sanno anche bene che non ci si può fermare davanti a queste provocazioni, e che bisogna andare avanti. Per noi è stato veramente molto importante la lotta che abbiamo fatto alla DL, perché abbiamo visto davvero come attraverso quella lotta, vedendo altri lavoratori che hanno preso coraggio, che hanno deciso di denunciare e deciso di mettersi in prima persona per lottare per i loro diritti, in tantissimi altri si sono rivolti al sindacato, in tantissimi altri vogliono portare avanti una battaglia. Per noi è stato veramente un simbolo molto importante, ma anche per i lavoratori stessi della DL, che quando appunto per fortuna oggi fanno turni che gli possono permettere anche di, una volta finito il lavoro il pomeriggio, di venire a sostenere gli altri lavoratori a cancelli. C'è una grande solidarietà, una grande forza come i lavoratori appunto di questa ditta di grucce, che vengono e partecipano ai picchetti degli altri lavoratori. C'è un sentimento, proprio una coscienza del fatto che queste lotte che stiamo portando avanti in questi giorni sono lotte che veramente possono cambiare il tessuto sociale e il tessuto economico della città, perché sappiamo che il settore tessile di Prato è un nervo scoperto per la città, è uno dei diciamo non un settore economico importantissimo e storico per la città di Prato, e sappiamo anche che in tutta la città tutti sanno quali sono le condizioni di schiavitù dentro quelle fabbriche, ma purtroppo nessuno ha mai deciso di muoversi davvero. Noi, ma soprattutto questi lavoratori, hanno deciso di muoversi, hanno deciso di dire basta a questo sistema di schiavitù, hanno deciso che non avrebbero più subito e sanno benissimo, sono coscienti del fatto che non lo fanno solo per loro, ma per tutti gli altri lavoratori che dopo verranno, per tutti i lavoratori anche che purtroppo non hanno il coraggio, non hanno le possibilità di farlo e che sanno bene che la partita che si gioca in queste lotte non è semplicemente per avere i contratti, per riuscire a regolarizzare 20, 30, 50 operai, ma è una partita che si gioca per riuscire veramente a cambiare il volto di Prato, per riuscire a creare, a rivoltare il sistema del settore tessile e far sì che nessuno più a Prato debba lavorare più di 8 ore. Questo è il nostro obiettivo. Noi siamo molto ottimisti, molto lungimiranti sul fatto che sarà una lunga battaglia, non solo a Fada, ma in generale sarà una battaglia molto lunga e molto dura. Ci scontreremo tante volte, ma quello che è il nostro obiettivo è che nessuno più a Prato debba essere schiavizzato, nessuno più a Prato debba lavorare 12 ore, 7 giorni a settimana. Per noi questo è veramente inammissibile e siamo veramente stanchi di vedere istituzioni di qualunque genere, dal comune, l'ispettorato del lavoro, gli altri sindacati che denunciano questa situazione ma non si muovono in nessun senso, né per spingere la lotta né per sostenere i lavoratori che a un certo punto decidono di denunciare, di lottare e di scioperare. Ma noi siamo convinti che questa sia la strada giusta, sia una lotta giusta e importante e quindi decidiamo comunque di portarla avanti. Nei prossimi giorni ovviamente ci saranno delle nuove mobilitazioni, torneremo davanti ai cancelli finché non riusciremo a sederci a un tavolo con il datore di lavoro di Fada e poter arrivare ad avere dei turni sostenibili e dei contratti regolari. La lotta non si fermerà finché non otterremo questi obiettivi minimi, per cui la mobilitazione andrà avanti e come andrà avanti la mobilitazione che faremo contro i fogli di via, perché sappiamo bene che questi fogli di via a me e a Luca non sono un attacco alla nostra persona, ma sono un attacco al sindacato. È il tentativo della questura di bloccare quello che sta nascendo a Prato, quello che si sta espandendo a Prato, il fenomeno dello sciopero e della protesta che si sta diffondendo come un virus nel settore tessile e nella città di Prato. La questura sta facendo dei vani tentativi per poter bloccare questo meccanismo che però sappiamo bene che una volta partito è difficile fermarlo. Noi pensiamo che sia un po' una ridicola illusione, diciamo, quella della questura che cerca di arginare quello che poi non si può arginare, perché non è il sindacato, ovviamente il Sicobas non è fatto da me e Luca, è fatto dai lavoratori che stanno sul territorio e anche questo tentativo di non far venire noi a Prato ci sembra anche a tratti ridicolo. Noi lo rispediamo al mittente e sappiamo bene che finché ci saranno i lavoratori queste lotte non si fermeranno, per cui porteremo avanti, appunto, come dicevo, la mobilitazione anche su questi fogli di via che sono un attacco a tutto il Sicobas e spero riusciremo ad aggiornarci per quelli che saranno gli appuntamenti futuri. Io vi ringrazio e saluto tutti.